May I have your attention, please? Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. Yeah, I love Italy. Con Andy Mangiarati su Radio Miami. I love Italy. Radio Miami International, Double RMI, al microfono dalla redazione italiana c'è Andy Mangiarotti. Benvenuti a tutti in questo rotocalco che dura 15 minuti ed è in lingua italiana. La conduzione e alla regia Andy Mangiarotti. Ben trovati, benvenuti. Siamo in onda su Kilohertz 7780 pari a metri 41 sulle onde corte della Double RMI, Radio Miami International. In apertura volevo salutare alcuni amici che ci hanno scritto tramite email, che chiedevano la ricezione delle cartoline QSL. Le abbiamo spedite circa un mese fa e presto le riceverete nelle vostre case, a Dio piacendo, soprattutto perché con questa pandemia solitamente è difficile magari che vengano ricevute. Non tanto perché non arrivano, perché magari ci sono controlli molto serrati alle varie dogane, magari capita che vengono bloccate, quindi speriamo che riceverete le nostre comunicazioni. Noi abbiamo appunto certificato i vostri vari rapporti di ricezione. In apertura vi ricordo i contatti, se magari ci state ascoltando sulle onde corte e volete inviarci un rapporto di ricezione, lo potete fare o tramite la nostra mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure se amate scrivere lettere o cartoline potete scrivere direttamente una lettera alla Double RMI PO Box 526852 Miami, Florida 33152 Stati Uniti d'America. Se preferite il cartaceo scrivete direttamente a Radio Miami, che sicuramente Jeff vi risponderà con una cartolina QSL. Stessa cosa facciamo anche noi: se volete la cartolina personalizzata dei I Love Italy, scrivetemi tramite email andrea@mangiarotti.org e vi mando il tutto direttamente a casa. Quest'oggi a I Love Italy partiamo così. Professore, lei cura il Covid con il plasma, ma ne usciamo fuori da questo maledetto virus? Devo dire che rispetto a quello che abbiamo vissuto febbraio, marzo, aprile, maggio, ancora siamo lontani da quella stagione. In questi giorni però, come voi sapete, i contagi stanno aumentando e stanno aumentando anche i casi di polmoniti anche gravi. Noi a Mantova abbiamo ripreso a utilizzare il plasma e bastano pochissime regole per evitare che si torni indietro. Pochissime regole come il distanziamento, evitare gli assembramenti, usare le mascherine e soprattutto lavarsi frequentemente le mani. Deve diventare un'abitudine perenne, perché non sappiamo ancora quanto il coronavirus circolerà tra di noi. Ecco, allora che cosa, lei ha dato dei consigli pratici adesso, ma in pratica che cosa si deve fare? Illustriamo bene ai nostri ascoltatori che cosa è questo coronavirus. Il coronavirus è un virus a RNA contagiante, molto contagiante. Determina la presenza del coronavirus nell'orofaringe e nel rinofaringe. non tutti i portatori però sono diffusori, cioè non tutti i pazienti che hanno il coronavirus in orofaringe o in rinofaringe determineranno poi contaminazione di altre persone. C'è però una buona parte dei portatori che è anche diffusore, quindi bisogna evitare che il virus si diffonda. E come dicevo prima, l'utilizzo delle mascherine e il distanziamento, soprattutto nei luoghi chiusi, va preservato. Sono piccole regole, poche regole che ci permetteranno di non richiudere il paese, perché l'obiettivo è proprio quello di non richiudere questo paese, che ne avrebbe un danno economico enorme. E poche regole che ci permetteranno di ripartire anche con le scuole in presenza, cioè noi non possiamo permetterci di ripartire con le scuole a distanza. Infatti il problema delle scuole è quello adesso imminente, quindi dobbiamo per forza adoperare questi accorgimenti che lei ci... Assolutamente sì. Per le scuole poi bisognerà provvedere a cercare dei percorsi che cerchino di ridurre il contagio intrascolastico e prevedere entrate diverse dalle uscite ed orari differenziati, cioè non far arrivare tutte le classi, soprattutto nelle scuole molto grandi. Bisogna cercare di differenziare, di scaglionare gli arrivi e le uscite e utilizzare le mense scolastiche solo nei casi in cui proprio vi è la necessità. Avete ascoltato questo contributo che abbiamo trovato sul web, sul sito Roma dintorni notizie, jingle Roma dintorni notizie, che trovate su YouTube. Era per l'appunto il professor De Donno, scomparso di recente, medico all'ospedale di Mantova. Giuseppe De Donno, purtroppo morto suicida nella sua casa di Mantova. Noi l'abbiamo ricordato e vi ricordo che oltre ai vari vaccini che oramai in tutto il mondo si stanno sviluppando, in Italia c'è stata e c'è tuttora una cura differente che mette in primo piano il plasma, la cura con il sangue di persone che hanno contratto il coronavirus però sono guarite. E il professor De Donno per l'appunto insisteva nel cercare di sperimentare anche questa cura. Professor De Donno, che non ha mai, diciamo così, messo in discussione l'uso dei vaccini, però con i vaccini proponeva anche questa cura. Purtroppo è morto suicida circa qualche mese fa. È un grosso peccato, perché era un ottimo medico e noi a I Love Italy l'abbiamo ricordato. Anzi, facciamo di più. C'è un articolo molto bello di Enrico Ruggeri che omaggia proprio il professor De Donno, apparso su un quotidiano, il Primato Nazionale, e ve lo vado a leggere. Ruggeri sempre molto, diciamo così, controcorrente e direi schiavo proprio di nessuno. Ruggeri omaggia De Donno, messo a tacere e delegittimato, è una tragedia, questo secondo Enrico Ruggeri. Enrico Ruggeri, come sempre controcorrente, decide di omaggiare il medico Giuseppe De Donno, trovato morto dopo essersi suicidato nella sua casa di Mantova. Ruggeri omaggia anche il medico inventore della terapia col plasma iperimmune come cura per il Covid, sostenendo che sia stato messo a tacere, delegittimato, deriso, escluso dai programmi TV, sottointendendo forse anche dietro questo trattamento di silenzio da parte dei colleghi e stampa. Per l'appunto, secondo lui, è stato un gesto insano. La sua cura aveva solo un difetto: costava pochissimo. Continua il cantautore, prendendo una posizione netta anche contro chi sviliva i progressi scientifici di cui si era reso protagonista De Donno. Come disse De André, siamo tutti coinvolti in questa tragedia, che è anche la nostra. La citazione ovviamente fa parte della canzone del maggio del poeta genovese. Vuole ricordare anche i suoi follower di non sentirsi esclusi da quella che, secondo l'autore, del mare d'inverno è una vera e propria tragedia del nostro paese. E poi Ruggeri parla anche del Covid. La nostra società non accetta la morte. A proposito di Covid, le parole di Ruggeri in un'intervista a Quarta Repubblica, dopo le frasi di Draghi sulla morte e il virus, risultano quantomeno profetiche. Siamo in una società che non accetta la morte, né invecchiare e morire. L'unico principio sacro e inviolabile è pensa alla salute. Pensa a Cristoforo Colombo, pensa a quelli che hanno combattuto per un'idea. L'hanno fatto perché non pensavano nella salute. È chiaro che uno cerca di vivere meglio possibile, di salvaguardarsi, ma muoiono 400-500 persone di cancro al giorno, di problemi cardiovascolari e così via. Sorrido se vedo uno con mascherina che magari ha un'alimentazione disastrosa, fuma e non si è mai premurato di nulla. Mi ha minacciato di morte per le mie posizioni, morirai di Covid, così capirai, mi ha detto. Capisco che c'è l'emergenza rispetto ai protocolli, però mi preme ricordare, non possiamo rinunciare a vivere per paura di morire. È contro natura, secondo Enrico Ruggeri. Quindi è apparso questo bel articolo del cantante che ricorda il professor De Donno. Giusto appunto, vi ricordiamo che è ancora attiva in alcune strutture ospedaliere italiane la sua cura col plasma, che sicuramente ha ottenuto ottimi risultati e costa pochissimo, a differenza dei vaccini che hanno un costo esorbitante, è diventato, diciamo così, un business. Però sia io che, come faceva il professore, non ha mai messo in discussione ovviamente il vaccinarsi, però abbinato ai vaccini, magari per quei soggetti che hanno problemi di salute e non possono accedere al vaccino, si può tentare questa bella cura che il professor De Donno aveva inventato prendendo spunto da vecchie pandemie, dove proprio veniva utilizzato il plasma nelle persone guarite da un determinato virus per cercare di salvare altre persone che invece non guarivano tanto facilmente, ma dovevano passare attraverso gli ospedali. Comunque vi ricordiamo che sia la Fondazione San Matteo di Pavia, che sicuramente cercherà volontari che si mettono a disposizione per donare il proprio plasma, ovviamente volontari di persone che hanno contratto il Covid e sono guarite. Poi ci sono passi avanti anche in altri ospedali, mi pare quello di Mantova, e è un po' un modo per ricordare la memoria di questo dottore che purtroppo ci ha lasciato. Effettivamente è vero, prima era in televisione, poi è stato un pochino deriso, e è il modo migliore, direi, per omaggiare questo medico, Giuseppe De Donno, questo medico di provincia, come lui si definiva, e che con questa cura, che non costava niente, ce la metteva tutta per curare i pazienti morti per l'appunto di Covid. Bene, quest'oggi I Love Italy termina qua. Andrea Mangiarotti vi ringrazia per avermi ascoltato sulla WRMI. Vi ricordo che se volete mandarci un rapporto di ricezione lo potete fare tramite mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure visitare il nostro sito voiceofitaly.it oppure andreamangiarotti.com. scrivetemi tranquillamente una mail e magari inviatemi anche un file dove testimoniate l'ascolto sulle onde corte, e vi mando la cartolina QSL personalizzata di I Love Italy. Se invece volete scrivere direttamente a Radio Miami, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Potete scrivere in formato cartaceo o digitale. Andrea Mangiarotti, veramente tutto. Io ringrazio Jeff White per lo spazio e per avermi permesso di essere live sulle onde corte in moltissime nazioni del mondo. Un abbraccio, cari amici, e a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente. Ciao da Andrea e buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Double RMI. Ciao a tutti, ciao.